Thank you. Avete appena ascoltato Buongiorno Mondi. Io sono Lorenzo D'Erasmo e vi auguro una buona continuazione della giornata e un buon weekend. Ciao a tutti!